Nella vecchia fattoria, ia, ia, oh, c'è un cavallo in scuderia, ia, ia, oh, che fa i, i qui e fa i, i là. Qui fa i, là fa i, dappertutto fa i, i, nella vecchia fattoria, ia, ia, oh. Sempre sporco a più non posso, ia, ia, oh, c'è un maiale in fondo al fosso, ia, ia, oh, che fa oink, oink qui e fa oink, oink là. Qui fa oink, là fa oink, dappertutto fa oink, oink, nella vecchia fattoria, ia, ia, oh. Dove un toro sta sdraiato, ia, ia, oh, c'è la mucca in mezzo al prato, ia, ia, oh, che fa mu, mu qui e fa mu, mu là. Qui fa mu, là fa mu, dappertutto fa mu, mu, nella vecchia fattoria, ia, ia, oh. Dove i topi son ciccetti, ia, ia, oh, c'è un bel gatto sopra i tetti.